24 mattino. Eccoci alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, staremo in diretta fino alle 9 ed è il momento di parlare dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Buongiorno. Riparte una nuova settimana. Buongiorno. Sì. Sempre pimpante a lunedì. E che dobbiamo fare? Il venerdì un po' stanco. Le ore di autostrada ieri, ho dormito 3 ore, ma pazienza. Che vabbè, adesso vogliamo sapere tutti dove sei andata. Stamattina sono in contestazione, un po' come i giudici di pace. Ah, è vero. Che è da vero. Oggi cominciano una uno serrata. Sciopero, esatto. Abbiamo sentito. Giudici di pace in sciopero contro la riforma, di cui abbiamo sentito anche poco fa in GR24. Eccoci qua. Sì, tra l'altro può sembrare abbastanza curioso che ne parliamo a soldi e dintorni, ma i nostri ascoltatori lo sanno sicuramente meglio di noi. Quando ci si imbatte nelle lungaggini della giustizia, civile o penale, ovviamente queste si ripercuotono pesantemente anche sul nostro portafoglio. Allora, di cosa parliamo oggi? Di questa riforma del processo civile che è entrata in vigore il 4 luglio. L'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace e l'Unione Nazionale Giudici di Pace hanno congiuntamente proclamato lo sciopero nazionale da oggi al 18 luglio. Ne parliamo con il segretario di uno dei due sindacati, Alberto Rossi, segretario dell'Unione Nazionale Giudici di Pace. Segretario, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, prima di tutto, vorrei sgombrare il campo da un equivoco, perché se andiamo a vedere bene, non è esattamente contro la riforma la vostra contestazione, il vostro sciopero. Certo, questa prevede un ampliamento delle vostre competenze, adesso ne parleremo, anche un aumento del valore economico delle cause che possono essere discusse davanti a voi. Il tema è che a fronte di un aumento delle competenze non aumenta il vostro organico, detta in soldoni, può essere spiegata così la ragione della vostra... Non precisamente. Neanche così. Il problema è abbastanza complesso, comunque riassumendolo, gli uffici del giudice pace presentano gravissime carenze di personale amministrativo più che di personale giudiziario. Consideri che dal 1995 al 2008 è quintuplicato il carico di lavoro degli uffici. A fronte di ciò il Ministero della Giustizia, anziché adeguare il personale amministrativo, ha addirittura ridotto del 20% le dotazioni organiche del personale amministrativo. Capisce che tutto ciò si ripercuote inesorabilmente sul lavoro dei giudici. Ci sono anche tutta una serie di problematiche che vi riguardano, nel senso che per esempio vi mancano una serie di tutele, e adesso spiegheremo anche queste. Però prima una curiosità: ho trovato questa mattina un pezzo pubblicato da Panorama l'8 ottobre del 2007, iniziava così: se non ci fossero, metà del sistema giudiziario italiano sarebbe nel caos, se non ci fossero, milioni di cittadini non avrebbero giustizia e i tempi dei processi andrebbero ancora più a rilento, se non ci fossero succederebbe quello che accadrà da oggi e fino alla settimana prossima, 7 giorni in cui i giudici di pace italiani incroceranno le braccia e scenderanno in strada per chiedere maggiori diritti e sicurezza sul futuro. Esattamente un pezzo come potrebbe essere pubblicato questa mattina, dottor Rossi. Esattamente. Non è cambiato niente in 2 anni. E sotto certi profili le responsabilità dei giudici di pace sono addirittura aumentate. L'aumento delle competenze civili, aggiungerei anche l'aumento delle competenze penali, il reato immigrazione clandestina che è stato assegnato ai giudici di pace. Sicuramente una grossa fetta della giurisdizione è assegnata al giudice di pace, che ha a tutti gli effetti oramai una componente essenziale alla magistratura. Sempre questo articolo di Panorama dell'8 ottobre diceva: questi 4.700 magistrati divisi in 26 distretti e 849 sedie che si occupano di cause sia penali che civili non hanno uno straccio di garanzia, non la possibilità di ottenere una pensione, non l'indennità di malattia o di maternità, non un'assistenza sanitaria. Prima di tutto, siete ancora 4.700, Rossi? Dunque, la pianta organica è 4.700, attualmente in servizio siamo a circa 3.000 e comunque riusciamo a smaltire senza problemi gli attuali carichi di lavoro, anche se c'è un problema di cattiva distribuzione dei giudici sul territorio. Si passa così da uffici con giudici che devono gestire 2-3.000 pratiche l'anno a uffici in cui ci sono giudici che invece devono gestire appena 20-30 pratiche l'anno. Ovviamente una redistribuzione razionale dei giudici sul territorio assicurerebbe ancora maggiore efficienza e minori tempi di definizione dei procedimenti. Ecco, la vostra battaglia più grande è proprio quella intorno alle vostre tutele, Rossi: non la possibilità di ottenere una pensione, non l'indennità di malattia o di maternità, non un'assistenza sanitaria. Perché? Questo perché noi sono anni che lo è una domanda che rivolgiamo da anni alla classe politica. Riteniamo che per garantire un'adeguata risposta di giustizia sia necessario, dall'altra parte, garantire al giudice di pace un minimo di diritti. Questo minimo di diritti va dalla rinnovabilità del mandato, tutele previdenziali, il giudice pace non ha nessuna forma di tutela previdenziale, garanzie ordinamentali di indipendenza, tutte questioni, diciamo, che potrebbero essere risolte molto agevolmente con poche norme, sostanzialmente costituiscono diritti inviolabili della Costituzione che non si sa perché vengono negati ai giudici di pace. Ecco, tra l'altro lei ha detto una cosa molto importante, la non rinnovabilità del mandato. 800 di voi, credo, entro breve andrà in scadenza, nel giro di un anno e mezzo, e questo potrebbe comportare un'ulteriore paralisi della situazione, come quella che per esempio sta vivendo l'ufficio dei giudici di pace di Roma. È la situazione forse più clamorosa, della quale si parla molto sui giornali. C'è addirittura una situazione del tutto non idonea dal punto di vista proprio ambientale del posto in cui siete ad operare a Roma, se non sbaglio, Rossi. Dunque, attualmente il problema delle inefficienze degli uffici è completamente dipendente dalla carenza di personale amministrativo. A Roma un giudice mediamente impiega 2-3 mesi per definire un procedimento e le cancellerie impiegano oltre un anno per pubblicare la sentenza. Leggevo così addirittura non è un luogo sicuro e idoneo per giudicare. In futuro un clandestino in un processo davanti ad un giudice di pace oppure in un processo simile a quello per direttissima potrebbe fuggire senza che nessuno se ne accorga. Consideri che assegnandoci questa nuova competenza è stata prevista la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice, e per poter presentare immediatamente l'imputato davanti al giudice questa persona deve essere sottoposta a misure coercitive della libertà personale, ossia trattenuta a Ponte Galeria o arrestata per altri motivi. E il problema è che negli uffici del giudice di pace non ci sono locali idonei per ospitare persone sottoposte a limitazione alla libertà personale. La nuova competenza Obiettivamente potrebbero darsi alla fuga nel caos che regna nei nostri uffici. Perché ricordiamolo, anche se le l'ho detto anche prima, c'è questa nuova competenza, poi adesso andiamo a definire, ad elencare anche le altre, la titolarità di giudizio sul nuovo reato di immigrazione clandestina. La figura del giudice di pace è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1995, noi lo conosciamo abbastanza bene come cittadini proprio perché di fronte a voi si discutono le cosiddette cause della quotidianità del cittadino. Tanto per fare un esempio, nell'uso comune siete conosciuti come i giudici delle contravvenzioni perché di fronte a voi si discutono le cause di opposizioni alle sanzioni amministrative, come le multe, una volta che si decide di non rivolgersi al prefetto. E invece con la riforma del processo civile, dottor Rossi, quali altre mansioni vi sono arrivate? Sostanzialmente c'è un aumento generale delle competenze. Le sanzioni amministrative, la competenza resta invariata, è aumentata la competenza per valore generale fino a 5.000 euro, quindi sostanzialmente è raddoppiato questo tipo di competenza, perché prima era 2.500 euro. Sono aumentate le competenze sugli incidenti stradali, che passano da 15.000 euro a 20.000 euro, ed è stata conferita una nuova competenza in materia ritardati pagamenti per stazioni previdenziali. Paradossalmente proprio anche la tematica previdenziale vi arriva addosso. Sì. Può sembrare un paradosso. Sono cause che richiedono professionalità specifica. Insomma, si va verso una sempre maggiore professionalizzazione del giudice di pace, però le ribadisco, dall'altro lato non si prevede nessun tipo di tutela per questa figura essenziale della magistratura all'interno del nostro sistema giudiziario. Aderiranno allo sciopero il 95% dei giudici di pace, sarà sicuramente un bel problema per i cittadini, per le cause in corso. In settimana dovrebbero essere, da quello che si conteggia, circa 170.000 le cause rinviate. C'è qualche margine, Rossi, per il quale lo sciopero si potrebbe revocare se il ministro Alfano vi convocasse, per esempio? Beh, no, allo Stato no, consideri che sulla base del nostro codice di autoregolamentazione per la revoca dello sciopero, la revoca deve sopravvenire almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero. Iniziando oggi lo sciopero non può più essere revocato, anche perché ciò creerebbe ulteriori disagi sia ai cittadini che agli avvocati che sono stati informati ai rinvii delle udienze. Quindi andrete ancora avanti. Peraltro, sì, mi dica. Sì, sicuramente se il ministro Alfano dovesse convocarci, noi siamo disponibili, assolutamente disponibili al dialogo. C'è un'altra curiosità che mi volevo togliere, ho letto che voi siete retribuiti a cottimo e a udienza? Sì, così viene volgarmente definito, più che a cottimo diciamo a prestazione, insomma, sulla base di ogni procedimento definito, di ogni udienza tenuta. È un rapporto un po' strano, anche qui l'esigenza di una riforma per chiarire bene che tipo di rapporto ci sia fra il giudice di pace e lo Stato, insomma. Da un lato si configura come rapporto di lavoro autonomo e viene pagato sulla base delle prestazioni, dall'altro come lavoro subordinato, essendo comunque il giudice di pace tenuto ad attenersi a quelle che sono gli ordini di servizi del capo dell'ufficio, le tabelle degli uffici, le circolari del CSM e del Ministero. Grazie, io ringrazio per essere intervenuto a Soldi e Dintorni Alberto Rossi, segretario dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace. Alessandro, so che ti ho rubato un minuto, ero convinta di dover chiudere a 27, no, scusami naturalmente. Tra l'altro stavamo anche curiosando su alcuni messaggi di alcuni ascoltatori sul tema di stamattina. Sì, che chiedeva un ascoltatore se a Genova c'è sciopero oppure no. In ogni caso, sì, lo scoprirà andando, ma penso proprio di sì. Mi pare di aver capito che se il 95% di giudici di pace oggi protesta. Se l'udienza è davanti al giudice di pace, temo per lui di sì, sciopero. Allora, a Salva Danaio, la certificazione energetica in condominio. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. Sì, pressoché unanime all'appello del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha chiesto un clima più civile tra maggioranza e opposizione. Si smarca solo Di Pietro, che dice non è possibile il dialogo con questa maggioranza. E in politica fa anche irruzione Beppe Grillo, che annuncia mi candido alle primarie del PD per rifondare il partito e offrire un'alternativa al nulla. Tra i più critici Fassino, che dice è una boutade, la sua iscrizione è inaccettabile. La cronaca: potrebbe essere giudicato con rito immediato Luca Bianchini, accusato di essere lo stupratore seriale di Roma. Oggi verrà interrogato per la convalida del fermo. Infine, per lo sport, la Formula 1, doppietta della Red Bull in Germania. Webber ha vinto la sua prima gara in carriera davanti al compagno di squadra Vettel. Terza la Ferrari di Massa. Mentre al Tour de France di ciclismo, l'italiano Nocentini rimane in maglia gialla dopo la tappa di ieri. Tutto questo alle 8:33 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Come detto, parliamo di nucleare, perché è passata un po' nei fasti del G8 in secondo piano l'approvazione in via definitiva del disegno di legge sviluppo, che è un altro passo che riporta l'Italia verso il nucleare, questo nei propositi del governo. Tra l'altro ci sono delle considerazioni interessanti da fare. Io voglio salutare il presidente della regione Piemonte, Mercedes Bresso. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Con lei c'è anche Chicco Testa, che saluto, manager oggi della banca d'affari Rothschild. Buongiorno Testa. Buongiorno. Bresso, io ricordo un'intervista che lei fece quando si parlò qualche tempo fa al ritorno al nucleare, a dire sì, fate una bella centrale nucleare, pensate di farla in Piemonte, io metto un bel vincolo territoriale appena so dove la volete fare e così vi frego, sostanzialmente. Immagino rimanga della stessa idea, no? Quella fu ovviamente una boutade. Certamente io resto, diversamente da Chicco Testa, resto assolutamente contrario al nucleare, in particolare in Piemonte, dove negli anni in cui si voleva fare una centrale a Trino Vercellese avevo fatto le valutazioni di impatto ambientale. È pochissimo praticabile, perché qualunque incidente che rilasciasse radioattività finirebbe nella pianura padana, perché ovviamente è lì sull'acqua, sul Po, il Po è il fiume che alimenta in acqua tutta la pianura padana, quindi vorrebbe dire che viene distrutta l'intera pianura padana, cioè l'unico posto dove in Italia abbiamo una reale capacità produttiva agricola. Quindi Inoltre, con la variabilità delle precipitazioni che abbiamo adesso, in estate il Po non avrebbe acqua, ne ha sempre di meno, e quindi i rischi di non avere acqua a sufficienza sarebbero molto più elevati di allora, e già allora Trino era considerata una localizzazione con pochissima acqua. Quindi c'è intanto l'aspetto, diciamo, di sicurezza che in mezzo alla pianura padana renderebbe la centrale. Però le chiedo, Presidente, perché c'è un aspetto importante di questo disegno di legge che magari è stato sottovalutato, questo riferimento all'articolo 120 della Costituzione, cioè che consente all'esecutivo di sostituirsi a organi di regioni, città metropolitane, province e comuni in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, oppure quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica, cioè a dire anche se c'è un veto dell'ente locale. Sì, intanto, come dire, si può fare tutte, questa maggioranza fa qualunque cosa, però non si può cambiare con un articolo di legge la Costituzione, quindi le competenze costituzionali non sono sostituibili. La sicurezza pubblica nazionale, per carità, certamente questo fa parte, dato che la sicurezza è competenza del governo, fa sicuramente parte delle competenze del governo, mentre invece le competenze urbanistiche e territoriali restano di chi le ha e non possono essere cambiate se non con una modifica della Costituzione. Comunque sarà una buttata, ma lei un vincolo territoriale lo metterebbe comunque se sapesse che lì in una località... Certamente, interverremmo con una precisa chiarificazione delle nostre intenzioni di pianificazione territoriale. Annoto però che mi sembra ridicolo, siamo in un momento di crisi e di conti pubblici assolutamente devastanti, con semplici normative che invece sono state rese complicate, sta esplodendo in tutta Italia, ma in Piemonte ancora di più, la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, dal solare alla geotermia, che in Piemonte ha geotermia a bassa entalpia, enormi potenzialità, all'eolico, sta esplodendo veramente, se guarda la curva del solare in Piemonte vede che sta andando. Quindi lei dice il nucleare adesso non... Io dico che con questo noi in pochi anni, nei prossimi 10 anni, che sono meno di quanto servirà a fare una eventuale centrale nucleare, possiamo produrre la stessa quantità di energia con un'enorme creazione di economie e di posti di lavoro. Questa è una centrale che viene acquistata integralmente dall'estero, che produrrà giusto i lavori di cantiere, cioè un po' di attività edilizia che, come noto, ormai è fatta tutta da lavoratori immigrati, e che produce la desertificazione di quel territorio, perché ci sono vincoli precisi per cui entro i primi 1000 metri non ci può essere. Il suo no è chiarissimo. Io vorrei sentire per un attimo Chico Testa. Come detto, Chico Testa oggi lavora alla Banca d'Affari Rothschild, ma insomma è identificato molto spesso è un pentito Chico Testa, buongiorno. Abbiamo fatto le battaglie. Sì, è stato presidente di Legambiente, poi è stato presidente dell'Enel, sicuramente ha scritto anche un libro edito da Einaudi dal titolo Tornare al nucleare. E sì, qualcuno dice ha avuto una conversione, sicuramente una manovra U, diciamo, un'inversione di rotta sul nucleare. Testa, perché lei dice oggi che fu tutta o in gran parte ideologia quella battaglia? Ideologia sbagliata, ovviamente. Ma guardi, dunque, partiamo da qualche numero. La Germania, come si sa, è il paese che ha investito di più sul fotovoltaico, è il paese recordman in Europa per quantità di fotovoltaico installato. Il fotovoltaico in Germania contribuisce allo 0,7% alla produzione di elettricità, con 3.500 MW installati. Il nucleare, in un paese che ha deciso di uscire dal nucleare, ancora produce all'incirca il 25% dell'energia. Quindi siamo 0,7 contro 25%. In Italia sta succedendo una cosa simile, perché indubbiamente c'è un boom del fotovoltaico. L'anno scorso sono stati installati 500 MW, un record. Peccato che contemporaneamente si siano aperti 3.000 MW a carbone. Purtroppo l'Italia, oltre adesso i discorsi se Trino o altri posti mi interessano relativamente poco. Il problema è che abbiamo due problemi. Uno, il livello di dipendenza dell'Italia dai combustibili fossili, gas e carbone, è assolutamente intollerabile. Non è risolvibile attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Chiunque seriamente guardi ai numeri sa che la realtà è questa. E in secondo luogo abbiamo un gigantesco problema ambientale nuovo. Non esiste alcuna possibilità per l'Italia, sono pronto a dimostrarlo, lavagna e numeri alla mano, di raggiungere gli obiettivi che essa stessa si è data, il famoso 20-20-20, sì, eccetera, eccetera, se non si fa ricorso almeno in parte anche all'energia nucleare. Però lei anche nel suo libro non ha aperto a questo totale ottimismo, cioè a dire che effettivamente coinvolgere per esempio i presidenti di regioni, coinvolgere le popolazioni locali, no, è una cosa fondamentale che in Italia ancora non c'è, forse non c'è. Ma è chiaro che il problema delle localizzazioni sarà il problema principe. E se lei mi chiede una previsione sulla possibilità che dalla norma parlamentare si passi alla realtà, sono molto molto molto scettico, per motivi che la mia amica Mercedes Bresso conosce molto bene, perché questo è un paese che non è che è l'ultimo capitoletto di questo libro che lei ha avuto la cortesia di citare, si chiama Il problema non è il nucleare, il problema è l'Italia. Ma certo, no? Si contestano le rotonde, figurarsi una centrale nucleare. Le rotonde, l'alta velocità, i termocombustori, i gasificatori, i parcheggi sotterranei, insomma, questo è un problema culturale, istituzionale. Certamente sono convinto che senza un coinvolgimento delle regioni e dei poteri locali le centrali non si fanno, su questo non c'è dubbio. Ho visto che c'è qualche regione che si fa avanti, qualcuna che invece dice di no, insomma vedremo che cosa succede. Nel frattempo segnalo che gli Stati Uniti di Barack Obama, dei Green Jobs eccetera eccetera, hanno la scorsa settimana autorizzato la costruzione di 7 centrali nucleari nuove, che la Svezia, che era stato il primo paese europeo a dichiarare la moratoria, tornerà a costruire centrali nucleari, che l'Inghilterra di Tony Blair e di Miliband, ministro noto per i suoi amori ambientali, ha un programma ha già localizzato, addirittura con un'asta pubblica, in Gran Bretagna, i siti per le centrali nucleari sono stati messi in vendita dal governo, che ha incassato qualcosa come 500-600 milioni di sterline. No, quindi quello che fa l'Italia è abbastanza trascurabile. Ma le chiedo fino a quando, non succederà come è successo 2 o 3 anni fa, che per un motivo o per l'altro non succede un'interruzione delle forniture di gas, e allora ci renderemo conto di quanto è grave e pesante la dipendenza dell'Italia dai combustibili fossili. Siccome io mi devo fermare, le chiedo, mi dica un sì o no, Testa, ma quella parte della sua vita lei come la definisce? Un errore? La cancellerebbe? No, rifarebbe tutto? No, ma mi scusi, guardi, allora io ho detto 1000 volte, sì, pentimento, conversione, eccetera, eccetera. Io credo che nella vita pubblica sia doveroso cambiare idea quando l'analisi dei dati intorno a te ti dimostra che certe tesi che hai sostenuto, non dico sono state sbagliate, sicuramente non sono più attuali. La coerenza è un valore certamente importante se facciamo riferimento al nucleo dei valori fondamentali di una persona. Dopodiché ciascuno di noi in una vita politica come quella anche della Presidente Bresso, che dura da molto tempo, è inevitabile che cambi idee su alcune questioni. Sarebbe straordinario che non fosse così. No, io nel ringraziarla anche Mercedes Bresso, Presidente, le chiedo anche lei un sì o no. Insomma, comunque in Piemonte lei esclude che possano esserci una centrale nucleare, un ritorno al nucleare. Abbiamo visto che alcuni governatori hanno detto sì, sono del PDL, e quelli del centro-sinistra a dire no. Queste sono la divisione delle regioni finora. Ma cosa vuole? Noi in Piemonte l'alta velocità è lì, attraversa il Piemonte, è stata la prima tratta realizzata in assoluto. Tra qualche protesta effettivamente che ricordiamo. Sto parlando della Torino-Novara, sì, che è stata realizzata senza nessuna protesta, unico caso in Italia per la verità, e fra proteste, ma si realizzerà l'altra, e così per tutte le cose che abbiamo una gestione dei rifiuti, abbiamo autorizzato il termovalorizzatore, eccetera. Quindi credo che sia del tutto diritto nostro essere contrari quando riteniamo che no. D'altronde sui dati si può discutere all'infinito. Certamente negli ultimi anni è stato installato molta più potenza eolica che nucleare ed oggi. Quindi il tema è: vogliamo andare verso un'energia che è secondo me alla fine comunque del proprio ciclo, oppure vogliamo puntare sulle energie rinnovabili alternative, magari, e sul risparmio, cioè, sì, ma questo guardi è un tema annoso, non pensi che abbiamo finito qui, nel senso che ne parleremo immagino per anni, visto che l'idea è la posa della prima pietra entro la fine di questa legislatura. Io però per il momento mi devo fermare ringraziando Mercedes Bresso, presidente della regione Piemonte, e Chicco Testa, manager della Banca d'Affari Rothschild, ex presidente di Lega Ambiente, ex presidente dell'Enel, insomma, che sul nucleare ha speso tante battaglie della sua vita. Grazie a entrambi. Il traffico poi è con noi, intanto già lo saluto, sono da lui tra un minuto, il senatore Ignazio Marino del Partito Democratico, uno dei candidati che fa la corsa per le primarie del Partito Democratico. Allora, sono le 8:47 minuti, saluto il senatore Ignazio Marino, buongiorno senatore. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, del Partito Democratico, sappiamo, gli nostri ascoltatori sanno che lei corre alle primarie, e come riepilogare quello che è successo nel weekend? Adesso lei ce lo spiegherà, ma insomma, l'arresto di Luca Bianchini, il presunto stupratore seriale a Roma, che è anche un dirigente locale di una sezione locale del PD, lei ha evocato, ha detto in un comunicato che ha fatto molto scalpore in alcuni esponenti del partito, a dire: ma come, allora c'è una questione, si può evocare una questione morale se una persona che è accusata di queste cose, che tra l'altro in passato aveva già fatto qualcosa del genere, è dirigente locale del PD? Apriti cielo, senatore, lei è stato preso da un fuoco di fila di critiche da Franceschini a Bersani, alla Bindi, alla Binetti. Ma è stata chiaramente data una forma diversa alle mie parole. Io credo e sono fermamente convinto che ci vuole un forte richiamo alla legalità nella vita politica. La vita politica deve essere esemplare e io sogno un paese dove quando una persona, un cittadino, entra in un ospedale, in un reparto di un ospedale, per esempio, ha la certezza che quel primario è lì non perché è amico del segretario del partito o del politico giusto, ma perché è veramente il più bravo. Sogno un paese dove, e questo purtroppo lo devo dire con chiarezza, accade nelle file del centrodestra, in Parlamento non sono eletti i condannati in forma definitiva. Io lo capisco che un condannato in forma definitiva deve essere riabilitato alla vita normale, ma siamo 60 milioni di persone, Dio santo, saremo in grado di eleggerne 900 incensurati? Ma questo che vuol dire? Cioè che per quella persona, per esempio, lei avrebbe chiesto il certificato penale, per cui veniva fuori che nel passato aveva avuto quell'esperienza per la quale è stato prosciolto per un raptus di un tentativo di violenza sessuale di una vicina. Cioè avrebbe chiesto il certificato penale? Guardi, io ho iniziato dall'anno scorso, da quando sono diventato presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale al Senato, a chiedere il certificato penale e informazioni ai carabinieri su tutte le persone che si propongono come consulenti. È stato un metodo condiviso da tutti i senatori e tutte le senatrici della commissione, e io non credo che sia un metodo sbagliato. Non so, penso che i cittadini siano abbastanza d'accordo. E allora come giudica? Pare che dalla stampa, almeno ieri lei era a fare un incontro tra l'altro a Sarzana, provincia di La Spezia, pare che sulla stampa lei si sia lasciato andare a un piccolo sfogo con i suoi collaboratori, a dire: mi hanno trattato peggio di Terminator, mi hanno strumentalizzato, Ma no, quella era una battuta, perché Rosi Bindi disse che non ho né cuore né cervello, allora io ho detto con molta semplicità che quindi sarei peggio del Terminator dell'ultima generazione, che quello almeno un cuore ce l'aveva. Però la questione morale, qualcuno dice, si fa e si può evocare, non so se uno fa la politica per interessi privati, per affari privati, come lei dice, non so, mettere l'amico, il fratello, ma una vicenda del genere non rischia di essere strumentalizzata? Cioè lei non è pentito per niente di aver accostato... Ma forse è stata strumentalizzata da chi senza voler comprendere le ragioni che mi portavano a fare una tale osservazione ha così subito attaccato le mie parole erano abbastanza chiare, il ragionamento era anche più articolato, io facevo anche riferimento ad altre situazioni di presunta illegalità, ma comunque il concetto per me rimane che la politica è una cosa seria, i cittadini devono essere sicuri che l'amministrazione viene fatta da persone che non sono da un lato competenti e dall'altro integre. Senta, c'è anche si sarebbe da commentare la sua amica Paola Binetti, amica e collega, che ha detto: se vince Ignazio Marina alle primarie io me ne vado, io e tutti i cosiddetti teodem, cioè quegli esponenti insomma che si questa è una diversa concezione del partito. Io lavoro per un partito che sia un elemento di modernizzazione del paese, che includa, non che escluda. Se vince Dario Franceschini, con cui Paola Binetti con le sue idee milita in questo momento, io rimarrò nel partito per esprimere la mia voce, le mie opinioni e sostenere con il mio voto le persone che credono in me. Intanto però c'è da dire, perché lei dice hanno un po' strumentalizzato, hanno capito male, però giusto per fare un resumé delle dichiarazioni: Franceschini, Marino offende migliaia di iscritti, la Serracchiani che sta con Franceschini, da Marino inopportuna strumentalizzazione, la Bindi né cuore né intelligenza per guidare il PD, e questo l'abbiamo detto, Bersani, neanche il peggior avversario la penserebbe come Marino, cioè si sono tutti un po'... come dire, irrigiditi, hanno tutti sbagliato. Le persone, soprattutto quei circoli nei quali io credo fortemente, io ho detto che non voglio come gli altri 5, 6, 7 correnti nel mio schieramento, io voglio una sola corrente in un partito forte, la corrente in cui credo è quella dei circoli. Ieri moltissimi coordinatori di circoli mi hanno chiamato, mi hanno scritto, mi hanno detto che hanno capito le mie parole, e addirittura un gruppo molto vasto di coordinatori di circoli italiani ha aperto un profilo su Facebook dicendo: noi la pensiamo come Marino. C'è da concludere, senatore, con la vicenda Beppe Grillo. Lei anche qui è andato un po' controcorrente a dire: ma bene, un nuovo iscritto. Però a me, sinceramente, io non sono iscritto al Partito Democratico e Dio me ne guardi, nel senso che non sono iscritto a nessun partito. Ma voglio dire, mi sembra più una boutade, senatore. Cioè Grillo che dice: mi candido contro il nulla del partito, cioè quello che è l'anti-PD o l'antipartito, che si candida in un partito per fare le primarie in un partito. Io credo che seguendo le regole della democrazia e le regole che un partito democraticamente si è dato, chiunque abbia le carte e diciamo le firme che servono per candidarsi lo debba e lo possa fare se lo desidera. È chiaro che il confronto deve essere un confronto sui temi, un confronto costruttivo come lo vorrei io, non un confronto, non uno scontro come lei ha dimostrato e avvenuto in questi giorni e anche nel passato, non uno scontro tra persone, ma un confronto costruttivo. Cosa ne pensiamo del nucleare? Lo vogliamo o non lo vogliamo? Cosa pensiamo del lavoro precario? Cosa pensiamo... Sì, ma è Beppe Grillo, cioè non è, nel senso, non è un politico che le ha viste le battaglie di Beppe Grillo, anche i modi di fare, molto tranchant, molto di qua o di là, molto, no, è un po' una provocazione Beppe Grillo, si sa. Ma io sono abituato a non dare giudizi sulle persone. Se Beppe Grillo arriverà con una mozione strutturata e delle risposte concrete su tutti i temi che preoccupano le persone che vivono nel nostro paese, io non vedo perché debba essere escluso. Va bene, io la ringrazio, senatore Ignazio Marino, senatore del Partito Democratico, è uno di quelli che corre con Franceschini, con Bersani, con Beppe Grillo a questo punto, con Adinolfi per le primarie. Grazie. grazie per essere stato con noi. Con lei mi devo fermare, Alessandro Marco Tulli in redazione con Laura Marchesi, Carmelo Lauricella in regia. 24 mattino e radio24.it è la nostra mail, e cedo il microfono a Oscar Giannino. A domani.